Hadith numero 41. Da Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As, che Allah si compiaccia di ambedue, disse: disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria: non crede uno di voi finché il suo desiderio non è conforme al mio insegnamento. Hadith buono e autentico che abbiamo attinto nel libro della prova, Kitab al-Hujja, con una catena di trasmissione autentica.